Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Benvenuti ad Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa Regionale. In studio Isabella Scandaletti e Margherita Giacchi. In questa puntata l'appello per la salvaguardia di Villaverdi nel Piacentino, la Biennale del Mosaico in Assemblea, misure per sostenere gli impianti sportivi contro il caro bollette e poi alcune iniziative per promuovere la parità di genere sul lavoro e contro le molestie. Dopo 20 anni di dispute tra gli eredi del maestro di Busseto, la Corte di Cassazione ha decretato che l'intera proprietà di Villa Verdi a Sant'Agata di Villanova, nel Piacentino, sia messa in vendita, probabilmente all'asta. E così anche lo storico museo all'interno della villa ha chiuso i battenti il 30 ottobre scorso. Forti le preoccupazioni per il destino di questo patrimonio inestimabile, dove Giuseppe Verdi trascorse 50 anni della propria vita. Con diversi atti, l'Assemblea Legislativa è intervenuta per rimarcare l'importanza di salvaguardare un bene unico. Una risoluzione firmata da esponenti della Lega e dal Partito Democratico avanza richieste alla Regione e al Governo. Sentiamo Fabio Regneri della Lega. Noi abbiamo chiesto alla Regione di intervenire nei confronti anche del Governo perché questa stupenda villa possa rimanere nella disponibilità pubblica e non possa finire eventualmente in mano di privati. È vero che lo Stato come la Regione hanno il diritto di prelazione su questo tipo di opere, però ritenevamo che non ci fosse fino a questo momento una dovuta attenzione. Ecco cosa ha dichiarato in proposito Pasquale Gerace del Partito Democratico. Non solo tutelato ma anche ristrutturato, perché in parte deve essere ristrutturato e quindi venga nuovamente fruibile per tutti coloro che sono non solo amanti ma anche quelli che vengono a scoprire le bellezze del nostro territorio e vanno a scoprire questo scrigno di bellezza particolare. Sulla vicenda il consigliere piacentino Giancarlo Tagliaferri di Fratelli d'Italia ha presentato un question time e in un'interrogazione ha chiesto anche di salvaguardare il personale che operava nel museo. Vigileremo su Villa Verdi, sulla situazione che si è creata. La Regione non può scaricare sul governo Meloni tutto quanto. Anche il maestro Muti ha posto un grande rilievo su questa situazione e dicendo che ogni tentennamento su Villa Verdi è una diserzione alla cultura. Vigileremo perché ciò non accada. Cambiamo argomento. Gli effetti del caro energia e l'aumento dei costi si fa sentire anche dentro le palestre. Il capo della segreteria politica della Presidenza, Gianmaria Manghi, è intervenuto in quinta commissione per relazionare sulla difficile situazione che in alcuni casi rischia di far chiudere gli impianti sportivi. Ecco cosa ha dichiarato la consigliera del Partito Democratico e presidente della commissione, Francesca Marchetti. In questo momento così complesso, ognuno deve fare la propria parte da tutti i livelli istituzionali, perché sappiamo e siamo convinti di come questo patrimonio associativo e come lo sport sia uno dei terzi pilastri del welfare di questa regione, che in questo momento deve sentire tutto il sostegno possibile affinché gli impianti e tutta la comunità sportiva possa continuare ad attivarsi e continuare le proprie attività. La parola d'ordine è condivisione. Per questo i consiglieri hanno sottolineato la necessità che la Regione sostenga le associazioni e i comuni che affrontano gli alti costi dell'energia dovuti alla crisi. E la Lega ha proposto una risoluzione condivisa per affrontare questi problemi. Sentiamo Andrea Liverani. Un impegno che deve essere condiviso da tutti i gruppi, non solo dalla Lega ma anche dal Partito Democratico, dal 5 Stelle, dalle aree civiche, un impegno che possa aiutare quelli che sono in difficoltà in questo periodo. La certezza che accomuna tutti è che chi può fare scelte decisive sono l'Unione Europea e il Governo, con una riduzione dei costi e regolamentando il mercato. Nel frattempo, la speranza è che la Regione faccia il possibile per aiutare le associazioni e tutto il mondo sportivo. Ecco le parole di Valentina Castaldini di Forza Italia. Bisogna decidere, bisogna prendere decisioni importanti in questo momento, ma una cosa su tutte, bisogna cominciare a pensare che risparmio è possibile e per farlo bisogna avere una mappatura dei territori e bisogna fare in modo che la Regione sia consulente in questo, cioè far risparmiare per poter dare servizi in più. Intanto Manghi ha annunciato che ci sono 97 milioni di euro previsti in due provvedimenti, 50 milioni già assegnati e atteso solo il bando di gara e altri 47 in arrivo. Investimenti però che devono essere sbloccati dal governo. E dunque, alla luce dei problemi esistenti, Stefania Bondavalli della lista Bonaccini chiede che vengano aiutati il prima possibile associazioni e comuni. La Regione Emilia-Romagna da tempo ha attivato un dialogo, un confronto costante con i gestori degli impianti sportivi nell'ottica anche di provare ad avere un ruolo di coordinamento nelle linee di programmazione. La Regione Emilia-Romagna come sempre farà la propria parte, convinta che lo sport è fondamentale per il benessere delle nostre comunità. Si rafforza in Emilia-Romagna la rete di avvocate e avvocati esperti contro le discriminazioni di genere sul lavoro. Nell'elenco nazionale sono stati inseriti 32 avvocati della nostra regione, su un totale di 264 componenti. A questi potranno presto aggiungersi i legali che hanno superato il test finale della seconda edizione del corso di alta formazione in diritto antidiscriminatorio, organizzato dalla consigliera regionale di parità con la rete dei comitati pari opportunità degli ordini forensi dell'Emilia-Romagna e la Fondazione Forense Bolognese. Sentiamo la consigliera di parità Sonia Alvisi. In Regione Emilia-Romagna sono stati fatti due corsi di alta formazione che hanno visto una partecipazione numerosa, soprattutto nel secondo, di oltre 600 avvocati e avvocate. È un importante patto di alleanza tra le consigliere di parità e l'avvocatura regionale a fronte di un diritto antidiscriminatorio in continua evoluzione. La shortlist di avvocate e avvocati nasce a seguito dell'attuazione del protocollo d'intesa firmato a livello nazionale nel giugno 2017 tra consigliere di parità e avvocatura. In Emilia-Romagna la prima shortlist regionale è stata pubblicata nel 2020. L'impegno, su una formazione specifica in materia di diritto antidiscriminatorio, risponde all'esigenza di favorire il giusto accesso alla giustizia per le vittime di discriminazioni e assicurare ad avvocati e avvocate una maggiore specializzazione in un ambito ancora poco conosciuto, ma in crescita dal punto di vista degli sviluppi professionali. Ecco le parole della responsabile organizzativa del corso, Marta Tricarico, vicepresidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Bologna. Il quadro normativo di riferimento è sia nazionale che internazionale, quindi chiaramente c'era bisogno di una maggiore competenza degli operatori sia per il riconoscimento della discriminazione, quindi per il contrasto, ma anche per essere poi accanto alle consigliere per tutte quelle attività di prevenzione affinché appunto non avvengano le discriminazioni nel mondo del lavoro. Rimaniamo in tema di parità. Le associazioni che promuovono l'uguaglianza di genere nelle imprese sono intervenute in Commissione Parità per riferire di esperienze e buone pratiche per valorizzare l'ingresso di figure manageriali femminili e favorire la parità nel mondo del lavoro. Ecco cosa ha dichiarato Federico Amico, presidente della Commissione Parità. Una serie di buone pratiche presentate da Rete Capodico, AGE e Federmanager che ci dicono come anche in autonomia, e la Regione ovviamente guarda con molto interesse e cerca di capire come sostenere queste pratiche, anche in autonomia cercano di promuovere l'ingresso per esempio di donne all'interno dei consigli di amministrazione, colmare il divario salariale. In Emilia-Romagna a trainare la crescita delle figure dirigenziali del settore privato sono le donne under 35. Le giovani manager a Bologna rappresentano il 46% dei dirigenti con meno di 35 anni, una percentuale che stacca nettamente anche Milano e l'intera Lombardia, dove il numero si ferma al 38% contro il 42% dell'Emilia-Romagna. Cristina Mezzanotte di Manager Italia è la prima donna presidente del sindacato dei manager in Emilia-Romagna da 75 anni a questa parte. In commissione ha illustrato il percorso Women on Board, a cui hanno partecipato 212 donne e 5 uomini, uno strumento pensato per far acquisire maggiori competenze alle donne che vogliono diventare manager. Sentiamola. Siamo a metà del percorso, adesso abbiamo l'esigenza di arrivare in fondo e poter dare enfasi a queste donne che vogliono partecipare ai consigli di amministrazione e si sono preparate per farlo. È meno difficile che una volta, certamente dobbiamo prepararci di più perché comunque ci viene chiesto un pochino di più che agli uomini. Siamo al termine della nostra puntata. Per rimanere aggiornati sulle attività dell'Assemblea Legislativa, seguiteci sui profili social e sul sito assemblea.emr.it. Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia-Romagna, programma a cura del Servizio Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. In redazione Margherita Giacchi, Andrea Perini e Isabella Scandaletti. Contributi audio di Davide Landi, Agenzia Dire, direttore Mauro Sarti.